Ma ora in diretta con noi abbiamo uno dei protagonisti, che è appunto il progetto Soul di L'Angelo, che nasce da un'idea di Angelo Gillo Colon in collaborazione con Fabio Panca Pancani e Gianluca Pan Panella. I tre componenti del gruppo suonano insieme da tantissimi anni, dalle prime esperienze come cover band hanno poi approfondito ed esplorato nuovi generi musicali, dedicandosi anche alla produzione di un album di brani originali che unisce la loro passione per il funk soul, dalle melodie ricercate ma allo stesso tempo orecchiabili e ballabili. Nel loro processo di crescita ed esplorazione nel mondo della musica non hanno mai tralasciato la qualità della produzione, e in questo nuovo progetto la grande passione per il soul e la sperimentazione si fondono completamente. Ma noi abbiamo in collegamento telefonico con noi Angelo, benvenuto. Ciao a tutti e grazie per avermi dato la possibilità di partecipare a questa diretta. È una bella occasione, quindi grazie davvero a Radio Fusico e a te per avermi chiamato. Grazie a te per essere con noi in diretta sui 103.1. Ti chiedo già, io appunto ho letto un po' l'introduzione, poi appunto noi ci rivedremo anche proprio al Soon Air Festival. Innanzitutto, com'è stato e come sarà partecipare a questo festival? Guarda, è stata un'esperienza bellissima, per me nuova, nonostante io suoni veramente da tantissimi anni, ho avuto la possibilità di suonare veramente su tanti palchi, però questa è stata un'occasione molto diversa, molto particolare, perché appunto ci ha dato la possibilità di sviluppare un live completamente diverso dal solito, ed è una grande possibilità soprattutto per una band tra virgolette emergente come la nostra. Cioè, è chiaro che le grandi produzioni hanno la disposizione spazi dove poter fare prove, dove poter creare a livello artistico un sacco di cose, mentre le band un po' più di nicchia, che fanno parte del mercato diciamo indipendente, questa possibilità è veramente difficile che ce l'abbiano. E il Soon Air Festival ci ha dato proprio questa possibilità. Noi siamo stati una settimana al Libra Club di Modena, che è un circolo arci molto bello, e dal punto di vista proprio anche tecnico è organizzato in maniera perfetta, quindi c'è un bellissimo palco, un bel impianto, un bel impianto luci, e io e gli altri due ragazzi, appunto come hai detto tu, Panca e Pan, siamo stati dentro una settimana, ci siamo rinchiusi, non dico in piena pandemia perché era ottobre dell'anno scorso, ma comunque già gli effetti di quello che poi è stato dopo si cominciavano a sentire. E anche per questo proprio ha avuto molto più valore, perché il periodo è così difficile, così strano, tra l'altro, così asettico dal punto di vista creativo, che quello per noi è stato proprio una mano dal cielo. È stato un momento molto bello. E poi il 17 noi abbiamo avuto la possibilità di fare un live set. I partecipanti ovviamente non sono stati tanti per una serie di cose, tra cui la prima il distanziamento che abbiamo dovuto tenere all'interno del locale. A noi si è unita anche Letizia, che è il quarto componente della band, e abbiamo fatto due spettacoli quella sera, la sera del 17, che poi sono quelli che andranno in onda durante il Soon Air Festival. Quindi è appunto come giustamente raccontavi, il periodo è difficile, infatti anche noi all'interno del nostro Fujiko Factory abbiamo fatto spesso delle inchieste, soprattutto anche noi ci rivolgiamo a nuovi gruppi esordienti, perché sta ben lì poi la difficoltà di fermarsi per più di un anno, perché ovviamente chi poi è in mano a grandi multinazionali eccetera eccetera è tutto un lavoro completamente diverso. Però infatti anch'io sono ben felice di aver partecipato a questo Soon Air Festival, proprio perché l'Arci dà a disposizione dei luoghi. Tu appunto parlavi appunto dell'Arci di Modena, dove siamo stati anche noi, dove saremo anche noi appunto in diretta giovedì e venerdì, e appunto sono luoghi che però vedere vuoti e quindi poterci suonare per poche persone, sicuramente senti che manca l'anima del posto, manca il pubblico. Assolutamente, infatti anche diciamo la situazione in sé ci ha dato un po' spunto per sviluppare, per creare lo spettacolo che poi abbiamo fatto. Abbiamo cercato di pensare a una cosa un po' più intima, visto che comunque saremmo stati in pochi, e c'era proprio il bisogno di avere una distanza rispetto al pubblico, perché è una distanza proprio che bisogna mantenere da un punto di vista proprio per evitare che questo virus si diffonda, ma allo stesso tempo abbiamo cercato di avvicinarci al pubblico dal punto di vista artistico, dalla nostra disposizione sul palco, da quello che abbiamo detto e da quello che abbiamo suonato. E come tu hai detto, appunto, la situazione è molto complessa. Sai, vorrei dirti che secondo me la situazione è complessa, è vero, per le realtà indie, per realtà più piccole, perché per loro si fa sentire di più, ma da quello che vedo in giro la situazione è molto complessa anche per i grandi. Infatti non stanno uscendo tante cose in questo periodo, proprio per quello, perché la situazione è molto molto complessa per tutti. Assolutamente, anche perché poi in realtà grandi e piccoli, poi comunque l'esperienza live, quindi avere il pubblico che poga, il pubblico che sta ammassato sotto un palco a divertirsi e vivere di musica, effettivamente ci manca a tutte e a tutti, appunto anche nella speranza di poterlo rivivere il più presto possibile. Però diciamo che il Soon Air può essere un primo esempio di qualcosa. Infatti anche ieri sono stati in nostra compagnia sui 103.1 anche il duo bucolico Fosco 17, quindi i tuoi compagni di viaggio appunto in questo festival Ready to Play, e appunto anche con loro dicevamo il fatto che comunque poi suonare senza pubblico, poi la mancanza c'è, però è un inizio. Infatti non sarà come ultimo concerto, che era un flash mob appunto per mobilitare un po' questa situazione, questa volta i concerti ci saranno davvero. Esatto, sì, infatti appunto grazie a Soon Air, grazie alla Regione Emilia-Romagna e tutte le persone che hanno creduto soprattutto in questa cosa qua, perché anche noi, per quanto riguarda la realtà dell'Angelo, appunto dobbiamo ringraziare tantissimo il Vibra Club, Bruno Giusti e tutta l'organizzazione dell'Arci Vibra, perché ha creduto in noi e ha fatto sì che questa cosa potesse succedere. E non è poco perché appunto i prossimi 18-19 di marzo andrà in onda un festival dove tante band hanno avuto la possibilità e la fortuna di trovarsi su un palco e suonare. Quindi direi che come segnale in relazione alla situazione che adesso è un segnale che c'è adesso, e appunto è un segnale enorme. Un segnale veramente grande. È un segnale grande. Io sono felicissima di averti avuto in diretta con me all'interno del nostro martedì di Fujiko Factory. Rinnoviamo appunto l'invito a seguire il Soon Air Festival il 18 e il 19 marzo, però noi ci salutiamo con un altro vostro brano che è Un po' di tempo fa, quindi nella speranza che appunto la musica bella dal vivo, che ormai era un po' di tempo fa, possa tornare prestissimo. Io ti ringrazio e ci risentiamo presto. Grazie attentissimo a te e a tutta la Radio Fujiko. Buon lavoro e buona giornata. Grazie a te, e noi ci ascoltiamo Un po' di tempo fa. È facile sbagliare se non sai una cosa, e dire cose strane che non sai di me. È come dubitare di chi non va in chiesa o scrive sopra i muri cose stupide. Mi sveglio ogni mattina con la stessa scusa di fare colazione anche senza di te. A volte arriva sera e sono ancora in casa e passo tutto il giorno in solitudine. Vado al mare, forse lì c'è gente, ho voglia di ammirare chi non fa mai niente. C'è l'area pedonale, qualche ristorante, e posso camminare anch'io. Ma mi ricordo un po' di tempo fa, quando le persone si stupivano di una banalità. C'era chi rideva come me, che credeva ciò che raccontavano le notorietà. Ottobre si avvicina e tu non sei tornata, è il solito rituale se non stai con me. Il bimbo del vino vicino beve una cedrata e sogna di volare sopra un bolide. Domani vado al mare anche se non c'è gente. Ho smesso di nuotare, il freddo ormai si sente. Mi porto la chitarra e guardo l'orizzonte e fingo di cantare anch'io, ma mi ricordo un po' di tempo fa, quando le persone si stupivano di una banalità e c'era chi rideva come me, che credeva ciò che raccontavano le notorietà. Ma ora che non vivo più in città, non ho più bisogno del citofono per chi presto arriverà. Io vorrei rivivere con te quelle sensazioni che odoravano di semplicità. Dimmi almeno come sarà il mio futuro, ciò che mi aspetterà, qualche mi merito. Posso dirti perché